My name is Derek G. I race for Israel Premier Tech, and bienvenuti a Geronimo. Geronimo. Perfect. Amiche e amici del ciclismo, delle fughe, dell'istruzione inferiore, superiore e qualsiasi altra istruzione voi abbiate a piacere, benvenuti alla nuova puntata di Geronimo, benvenuti da me che sono Filippo Cautz, da me che sono Leonardo Piccione e da me che sono Michele Pelacci. Geronimo è un podcast presentato da Al Vento con le voci di Bidon e il supporto di Shimano Italia e questa puntata va in onda in un luogo importante. Dove siamo? Siamo nella quarta BP, doppia lettera, dell'Istituto Professionale di Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale Luigi Donati di Fossombrone, per cui finalmente per torniamo a registrare nelle scuole. Esatto, in questo giro siamo a registrare il podcast in una scuola. Siamo stati introdotti dal saluto di G, ormai lo conoscete, c'è praticamente una delle... Dopo Matthew Riccitello è la vera star di questo Giro d'Italia. Derek G, oggi menzionato anche in diretta televisiva, è stato anche mostrato il suo uccello preferito. Dilla bene questa. C'è stato è stato menzionato la sua passione per il birdwatching e il volatile che lui più, esatto, che lui più ama, che è il gianco. Il gianco occhi neri, l'ho imparato a memoria. Occhi neri, bravissimo. Chi scuri, occhi okay, scuri. L'ha imparato a memoria, ma male. Ed è stato questa proprio puntata, mostrato anche sì, l'uccello. È stato mostrato anche il gianco. Gianco. E nel fare gli auguri a Marianne Vosche, oggi compie gli anni, abbiamo detto che siamo a Fossombrone, purtroppo non siamo più all'Aquila, dove siamo stati ieri sera e dove io mi sarei fermato. Perché? Perché non parliamo più del trofeo scacchi scuola, abbiamo detto in questo podcast, ma quanto sarebbe stato bello fermarci all'Aquila questo weekend, perché nel nostro hotel c'era la finale mondiale di Check the Style. Che cos'è Check the Style? È un trofeo internazionale di breakdance. Infatti stamattina c'erano dei personaggi bizzarri sì, a colazione. Sì, ecco, non so se, capito. Non so se l'avete notato, erano i partecipanti al trofeo internazionale di breakdance Check the Style, che si svolge all'Aquila questo weekend. Volete sapere? Vi dico solo la giuria internazionale che valuta questo torneo. Ci sono Nasty Ray, Kleju, San Andrea, Ninja JS, Het Solo, Taz, Admir, Foglia e Collo. Collo. Che deve essere il breakdancer preferito di Gagan Hart, tra l'altro. Sì, non so se è un breakdancer. No, comunque. Ma forse questo è il motivo per cui mi sembrava che a colazione stamattina ci fossero molti ragazzi somiglianti a Ben Healy. No, Ben Healy è un po'... Un breakdancer. No, però è dà l'idea di essere appartenente a quel mondo un po'. A me no, però, no. Però è giusto che ognuno si faccia la sua idea su Ben Healy, detto Ben Healy, vincitore, non sappiamo se è detto così, vincitore della tappa odierna sul traguardo a 300 metri di distanza dall'istituto scolastico dove ci troviamo a Fossombrone. Sì, Ben Healy ha vinto una tappa molto bella oggi, questo tipo di tappe deludono raramente con questo percorso così ben disegnato, che ricordava delle classiche, evidentemente sono le classiche in questo momento del ciclismo. Gli mi eventi. Stai dicendo che oggi era la piccola Liegi-Bastogne-Liegi? No, non volevo dire questo, però è evidente, è chiaro che sono le classiche, le corse che stanno ravvivando il ciclismo in questi anni, perché abbiamo tanti corridori che si esaltano su questo tipo di percorsi. Ben Healy è un tipo, è uno di questi corridori, è arrivato secondo all'Amstel, quarto alla Liegi qualche settimana fa, è riuscito a mantenere uno stato di forma molto buono, ha detto che si è fermato dopo le Ardenne per qualche giorno, è stata un po' una scommessa per lui fare questo tipo di scelta, però adesso ha ritrovato, è arrivato al Giro con una forma non paragonabile, ha detto lui, a quella delle Ardenne, perché stava ancora meglio in quelle occasioni, infatti è stato l'unico a resistere a Evenepoel e a Pogacar. Eh sì, e ha vinto questa bella tappa in cui si sono mossi anche gli uomini di classifica per la prima volta all'ottavo giorno in questo Giro d'Italia. Ma leggiamo l'ordine d'arrivo? No, prima facciamo una sintesi di come è andata la tappa, Michele, poi leggiamo l'ordine d'arrivo. La tappa molto lunga, come avevamo detto, oltre 200 km, è molto mossa all'inizio. Ha faticato a far andare via una fuga, no? La fuga numerosa si è formata solo tanti chilometri e tanti tentativi dopo l'inizio. Due grupponi si sono raggruppati, scusate il bisticcio, fino a formare un drappello di 13 corridori, che sono i seguenti: Riesebeek, Skuins, Tonelli, Battistella, Bidar, Zana, Ghi, Chili, Verona, Paré-Pantré, inteso come Valentin. Inteso come Paré-Pentre. Lui. Lui. Ho detto, questa non posso sbagliarla, sennò vengo cazziato. Infatti, gli ultimi tre... Valentin, comunque. Ricordiamo il pennello piccolo. Il pennello piccolo. Gli ultimi tre sono Baez, Barguil e Iacchi. Questa fuga, si è capito, più o meno verso le gole del Furlo, a quell'altezza della tappa, che sarebbe potuto arrivare perché aveva ormai 6 minuti di vantaggio. Sulle prime rampe della primissima salita dei Cappuccini, quando mancavano ancora 50.2 km all'arrivo, Ben Healy ha attaccato salutando il resto della compagnia e andando a vincere in grande stile. Dietro intanto sono successe cose, no? Anche tra gli uomini di classifica. Sono successe cose di tutti i colori, nel senso dei colori delle squadre che hanno preso la testa del gruppo. Per un breve momento c'è stata la Sudal Quickstep, poi una bella azione, sembrava abbastanza decisa, degli Ineos. Un'azione della Jumbo, che per la prima volta, credo, in questo Giro d'Italia si è affacciata nelle prime posizioni del gruppo dei migliori. Un forcing della Bora, fatto sta che sulla nuova, sull'ultimo passaggio, secondo, terzo forse, e ultimo passaggio sulla salita dei Cappuccini, se ne va con forza Primož Roglič, e dopo aver fatto una pausa fisiologica ai meno 10 di cui non si è ben capito la ragione, o gli scappava tanto oppure era una questione politica, se ne va e gli sta dietro inizialmente con una certa fatica la maglia rosa Leknesund. Remco perde un po' di metri, Remco riesce a rientrare, si ristaccano entrambi, in un qualche modo se ne va da solo Roglič, scollina e nei pressi dello scollinamento viene ripreso dai due capitani della Ineos, Thomas e Geoghegan Hart. Loro tre si buttano in discesa con Roglič che fa il passo, che era il discesista migliore, e alla fine arrivano al traguardo con una manciata di secondi sul gruppo di Remco, ma adesso riepiloghiamo per bene la classifica di tappa con tutti i distacchi. Sì, perché ha vinto Ben Healy con 1 minuto e 49 secondi di vantaggio su Derek G, e lo stesso tempo su Filippo Zana. Posso dire, sì, posso dire come è andato, sì, lo sprint? Lo sprint, sì, che ha Zana vinto G? È, sì, stato uccellato da G. Da quanto l'hai preparata questa? Mi è venuta in mente sul rettilineo d'arrivo, mentre lo vedevo avvenire. Sì, è vero, è stato così. Quindi G secondo, Zana terzo, Barguil quarto, Carlos Verona quinto, Mattia Baez sesto, Tom Skuins settimo, Alessandro Tonelli ottavo, Riesebeck nono e poi al decimo posto il primo degli uomini di classifica che è Theo Geoghegan Hart, che ha battuto in questa piccola volata, piccolo segnale se vogliamo, Primož Roglič e Geraint Thomas, suo compagno di squadra. A 14 secondi da Geoghegan Hart, Roglič e Thomas è arrivato il gruppo che comprendeva Remco Evenepoel e Joao Almeida. C'erano anche Caruso, Haig, Dunbar, Sivakov e Vine. Però 14 secondi guadagnati da Geoghegan Hart, Thomas e Roglič su Evenepoel e 34 sulla maglia rosa, che è riuscito a difendersi, è riuscito a tenere la maglia rosa per 8 secondi su Remco Evenepoel. Ma la classifica generale la vediamo più avanti, adesso rimaniamo sull'ordine d'arrivo, perché hai saltato una persona sola in questo tuo ordine d'arrivo. Esattamente in mezzo tra il gruppo di Roglič e il gruppo della maglia rosa c'è François Bidart, che è arrivato esattamente a metà, 7 secondi, ha diviso in due questi gruppi. E io voglio mandare un enorme abbraccio a François Bidart, perché stava portando a termine la sua fuga con, tutto sommato, era l'ultimo dei fuggitivi che era rimasto, però con soddisfazione. E tipo a 300 metri dall'arrivo si è visto passare tre fulmini uno di fianco all'altro, e veramente io ho colto la sua espressione come dire: ma no dai, ero praticamente arrivato, e invece niente. Ma visto che l'hai menzionato, diciamo che François Bidart non è un bird watcher, però ha una fattoria, la sua famiglia gestisce una fattoria e producono anche del gelato, quindi sì, la prossima volta vi diremo di più anche su François Bidart, perché ci piacciono i personaggi bucolici, come avrete forse notato. Ma torniamo a Ben Healy, perché è un grande personaggio, è un ragazzo del 2000 che è difficile dire che sia del 2000, sembra molto più grande, è 7 mesi più giovane di Remco Evenepoel, nonostante sembri lo zio forse, o il cugino hipster di Remco Evenepoel, diciamo così. Hipster? Ti dà l'impressione hipster Ben Healy? Mi dà tante impressioni diverse. Non voglio dirlo, adesso sembra una critica, invece per me è solo un elogio, mi dà l'impressione proprio del peggior beone da pub irlandese. Lo vedo molto lontano dagli hipster, però può essere. Vedremo, dobbiamo approfondire la sua conoscenza, perché perché secondo me lo rivedremo in questo Giro d'Italia, lo rivedremo poi in futuro anche in un altro ruolo, perché non ha escluso la possibilità in futuro di tornare al Giro per fare classifica generale. Però intanto rimaniamo sulla vittoria di oggi, ha vinto partendo da una fuga, e Thomas De Gendt infatti tra l'altro ha mandato la sua benedizione, approvazione ufficiale di fuggitivo, e ha vinto con il suo stile che, Michele, tu gliel'hai chiesto in conferenza stampa, forse non è ortodosso, però ci ha spiegato da dove deriva e perché lui va in bicicletta in questo modo un po' storto, no? Ci ha confermato anche il fatto che questo suo stile non è esattamente canonico, bello da un punto di vista appunto, no? Tradizionale, rigoroso, andansose, come i migliori scalatori che abbiamo visto nel passato. Non lanciarti troppo, no, ragione, Michele. Guarda, sono francese, guarda. Però ha detto che è efficace. Lui ha detto, perché devo cambiarlo? È efficace, mi fa vincere. Ha parlato probabilmente un accento di Birmingham molto stretto, quasi irlandese, però abbiamo capito qualcosa sul manubrio. Il manubrio che le sue bici che è particolare, no? E lui, avendo un passato anche nel mountain biking, è riuscito a, per esempio, in discesa andare molto forte oggi e a mantenere un vantaggio. È stato strano questa fuga, perché lui quando attacca ai meno 50, da una parte abbiamo pensato è pazzo, dall'altra, tempo un chilometro, abbiamo detto non lo prendono più. Eravamo sicuri che non lo prendessero più. Dà una dimostrazione di forza davvero diretta a chi guarda. Sì, sì, è stato chiaro fin dall'inizio che non l'avrebbero più visto Benili. Era il più forte nettamente della fuga di oggi, no? E credo ci sia poco altro da dire su come si sia sviluppata la sua vittoria, su come sia arrivata. Il più forte nettamente ha vinto con quasi 2 minuti di vantaggio sul secondo. Ci aveva anche già provato tanto in questo giro a prenderla la fuga buona, è evidente che gli scappava la gamba, e oggi è stato lampante questo fatto. A proposito di questo, è stato interessante secondo me, lui stesso ha, su domanda diretta, ha confrontato questa fuga a quella della tappa 4, in cui ha sprecato molte energie e ha detto, in quella tappa lì ho fatto molti attacchi ma avrei dovuto calcolarli meglio, forse avrei dovuto essere più razionale. I just got lost in the moment, ha detto, mi sono perso nel momento. Stavolta è già migliorato. Che è l'opposto di carpe diem. Abbastanza, no. Abbastanza, sì. In un'altra lingua, ma più o meno l'opposto. Sì, sì, io ho avuto un po' l'impressione che lui sia molto più, come dire, attento ai dettagli di quello che può sembrare dalla sua apparenza e dal suo stile, no? Proprio ci ha detto che questa sua posizione in bici è studiata, cioè non è che lui va in bici storto perché, come dire, si sia... Ah, non fa apposta? Non fa cioè apposta. Cioè lui saprebbe andare, sarebbe Gianni Bugno, ma fa apposta per, no, per creare ho divertimento. Ho dovuto pensare, studiarmela questa mia posizione per adattarla alle mie caratteristiche fisiche soprattutto. Perché lui è molto piccolino, molto magro, e quindi ha trovato questo suo equilibrio. Sarà un personaggio, già lo è, importante dei prossimi anni di ciclismo, forse, come dicevamo, anche per la classifica generale. Ha detto, ci penso un giorno a fare classifica, però non posso darvi una risposta prima che io abbia trovato una risposta io stesso su che tipo di corridore voglio diventare. Molto filosofico. E infatti anche, vedi che è un pensatore. È giusto, è così. Oggi eravamo al track, io e te, Leo, in conferenza stampa. Ho apprezzato come di Ben Healy fosse palese il fatto che non vede un pettine, i suoi capelli non vedono un pettine da alcuni giorni, probabilmente. Volevo solo dirti un'altra cosa su... Pelacci, perché sì. Tu ti pettini la mattina. No, zero, infatti. Lo trovo molto, come dire, familiare per me, no? Cioè, entrambi non ci pettiniamo, per cui... Spero che mia madre non sia all'ascolto di questa puntata. Speriamo invece che ci ascoltino le mamme di altri fuggitivi che erano protagonisti. Perché è un ottimo podcast e io fossi in loro passerei il tempo ad ascoltarlo. Poi la mamma di uno di questi, cioè siamo stati un po' tra le persone che più gli hanno dato visibilità in questo Giro d'Italia, diciamolo, per cui sarà sicuramente interessata ad ascoltarci. Sì, in questo Giro d'Italia stiamo anche un po' portando fortuna, diciamolo, prima che passi questa Io ho quasi andata. Preso il pronostico oggi, incredibilmente. Tu, Zana, no? Zana, Filippo Zana è arrivato terzo. Vabbè, al di là di questo, ovviamente dopo la linea del traguardo, non potevamo non fare una domanda a uno dei grandi protagonisti dopo Ben Healy, Derek G, sorridentissimo, se si può dire, felicissimo, ascoltiamo. Congratulations! Can we say you were flying today? Yeah, no. Yeah, that's a good one. I'm so wrecked, yeah, but I'm so, so happy. So it was a lie that you are scared of climbs. You are very good on climbing. I think today was a good day for sure. Yeah, the legs felt amazing, so I'm really, really happy. Congratulations, enjoy that moment. Thanks a lot. E allora, avete sentito le risate e un po' ancora l'affanno di Derek G dopo la linea del traguardo. Gli ho chiesto, possiamo dire che oggi hai volato, stavi volando? E lui ha risposto, sì, questa è una buona battuta, sono distrutto, ma sono veramente felice. E poi gli ho chiesto, quindi era una bugia che tu hai paura, avevi paura delle salite, come ci aveva detto nell'intervista ieri, perché oggi sei andato benissimo in salita. E lui ha detto, sì, diciamo che era una giornata molto buona, le mie gambe erano fantastiche, oggi, e ancora una volta, ripeto, sono felice. Avete sentito poi nel finale anche il suo abbraccio con l'addetta stampa della Israel, che sono... No, ogni tanto ci piace anche raccontarvi di questi personaggi che appaiono, non magicamente, sono lì ad attendere i corridori dopo che arrivano, e come condividono a volte la disperazione dei corridori quando perdono, a volte sono le prime persone che i ciclisti abbracciano quando hanno vinto, e oggi è toccato all'addetta stampa della Israel accogliere il raggiante Derek G. Tranne quando vince Michael Matthews, che ricordiamo che lui vuole abbracciare Michele Pelacci. Sì, quando ha questa tendenza. Arriva al traguardo dopo aver vinto. Abbiamo salutato che ci ascolta la signora G, ma se c'è una mamma che non ci ascolterà oggi perché è stata impegnatissima nelle ultime 48 ore, è la signora Bice, perché dopo la vittoria di Davide ieri, oggi è una giornata in fuga per il fratello Mattia, con il quale abbiamo scambiato due parole al traguardo. Ciao Mattia, mi racconti un po' questa giornata, com'è andata? È stata una giornata dura perché tutti volevano andare in fuga, oggi si sapeva che poteva arrivare. E sono stati 90 km che tutti provavano e poi siamo riusciti, sono andati via in 4 dalla prima salita e siamo riusciti a rientrare in sotto in altri 7. E dopo siamo andati a regolare fin sotto le salite, dopo dalle salite è esploso un po' tutto e è andato via quello delle F e dopo dietro si è rimasti in 5. Però per te non era una giornata qualsiasi, perché tu eri in fuga e ieri ha vinto tuo fratello. Ieri era in fuga mio fratello e è riuscito a concretizzare vincendo. Oggi mi sarebbe piaciuto fare la stessa cosa, però c'erano dei nomi importanti nella fuga di oggi e non era facile. Ho cercato di gestirla meglio e ho colto un 6° posto, dai. Noi non abbiamo ancora capito se è mai successo che due fratelli hanno vinto 2 tappe in un grande giro. Adesso stavo cercando. È un obiettivo a questo punto, è un record incredibile. Sarebbe bello se... però non è così facile. Qua c'è gente che va veramente forte. Noi ci proviamo sicuramente, abbiamo lavorato molto anche per questo. E il giro è ancora lungo, non si sa mai. La speranza è l'ultima a morire. Mi dici solo un'ultima cosa, cosa hai detto ieri a tuo fratello quando l'hai incontrato e cosa ti ha detto tuo fratello oggi sul bus? Quando l'ho visto l'ho abbracciato e gli ho fatto i complimenti, sono stato un po' tranquillo. Dopo abbiamo festeggiato col team la sera e... Qual era la seconda domanda? Cosa ti ha detto lui oggi? Devo ancora vederlo, non l'ho ancora visto. Avete una chat di famiglia? Sì, abbiamo una chat di famiglia. Ieri quanti messaggi? Tutti i parenti. Grazie mille, buona giornata. Grazie, buon riposo. E vedremo se riusciranno a stabilire questo record. Noi non abbiamo finito di cercare perché è una ricerca abbastanza lunga, per cui la rilanciamo anche ai nostri ascoltatori se scoprono se è mai esistito un'edizione di un grande giro, ancora meglio del Giro d'Italia, in cui due fratelli hanno vinto 2 tappe differenti. Forse a inizio secolo, non lo sappiamo. A inizio secolo quale secolo? Tutti i secoli, tutti ogni anno secoli. All'inizio del secolo è il momento, dei fratelli. Sì, sì, sì. Ok, va bene. Ma passiamo alla classifica generale, che è cambiata oggi, abbastanza cambiata, almeno nei tempi. La maglia rosa è sempre Andrea Sleknesund, ma adesso solo 8 secondi di vantaggio su Remco Evenepoel, e ha già detto che domani perderà la maglia rosa. Non è un segreto, non lo farà apposta, non lascerà la maglia Evenepoel, ma ha detto che la perderà perché non è più forte di Evenepoel a cronometro. La perderà, l'ha detto, e la tua domanda, ti rubo solo 30 secondi. Prego. All'ordine della classifica generale. La tua domanda successiva è stata, ok Andreas, quindi adesso cosa fai? Punti alle tappe o a una top 10 in classifica generale? E io subito ho pensato a una cosa che scrisse, dopo vi dico chi, che è questa. La maglia rosa, dice questo scrittore, rende rigidamente conservatore chi fino a ieri è stato rivoluzionario. Andreas Sleknesund ha detto che d'ora in avanti non penserà alla top 10, penserà alle tappe. cioè tornerà a essere quello che era prima, quello che andava in fuga, quello che ci provava, quello che attaccava. Questa cosa diceva Indro Montanelli di Renzo Zanazzi al giro del 47. E secondo me è tornata buona adesso. Andreas Leknessund tornerà a essere un rivoluzionario. Speriamo, sì, sarebbe bello vederlo all'attacco nei prossimi giorni. Ma proseguiamo con la classifica generale, perché al terzo posto è salito di due posizioni Primoz Roglic, e adesso a 38 secondi da Leknessund, ma quel che più importa, a 30 da Remco Evenepoel. Quarto è Joao Almeida a 40 secondi, poi segue Geraint Thomas a 52, questo è sempre il distacco da Leknessund, bisogna toglierne 8 per calcolare il distacco da Evenepoel, ma potrete farlo da soli. Sesto è Theo Gegenhardt, che ha guadagnato anche lui due posizioni in classifica generale. Settimo Aurélien Paré-Peintre, che resiste ancora in top 10. Ottavo Alexander Vlasov, nono Damiano Caruso. Decimo Lennard Kemna a chiudere la top 10. Segnalo fuori dalla top 10 diciottesimo Thibaut Pinot a 3:01 e ventunesimo Domenico Pozzovivo a 3:29 da Leknessund. Quindi questa è la classifica generale, con finalmente qualcosa che si è mosso tra i primi. Roglic oggi ha dato prova di esserci e di essere evidentemente, se non proprio il favorito, sicuramente il più grande rivale di Remco Evenepoel. Sì, il favorito non lo so, però è vero che per la prima volta in questo giro, lo dicevamo, Roglic ha deciso di mettere delle carte sul tavolo. E se le metti, lo fai per due ragioni. Io non sono un giocatore di poker, però immagino che lo fai per due ragioni: o perché hai la giocata o perché stai bluffando. Da quello che si è visto su quella salita lì, è vero che era una salita breve e particolare, non sembrava bluffare molto Roglic, no, per cui sì, oggi ha avanzato una seria candidatura che già aveva in partenza, ma ha ribadito una seria candidatura al ruolo di leader di questo Giro d'Italia. Sì, la tappa fino all'attacco di la tappa di oggi, fino all'attacco di Roglic, aveva confermato quello che era successo ieri, cioè questo timore di mostrarsi, appunto, di giocare le proprie carte nel timore di essere poi svelati nel bluff. E doveva essere Roglic a rompere questo equilibrio, questo attendismo. Era l'uomo più atteso e era il più adatto forse al finale di tappa di oggi, con quella salita corta ma dura e poi la discesa successiva. E non ha deluso le aspettative, ha dimostrato di esserci. A me resta il dubbio se quella di oggi sia effettivamente una vittoria per Roglic o se contenga invece qualche rimpianto rispetto a quello che poteva essere una tappa come quella di ieri, con Remco che ha mostrato oggi qualche difficoltà in salita. Forse ieri si sarebbe potuto attaccare e mettere ulteriormente in difficoltà. Secondo me resta molto positiva questa giornata per Roglic e per il Giro, che adesso è davvero entrato nel vivo. Sì, la tappa di ieri era molto diversa, per cui faccio anche molta fatica a paragonare le due situazioni, però non ho dubbi sul fatto che Roglic stasera vada a dormire con il sorriso. Ci si poteva aspettare forse o forse no qualcosa di più dagli Ineos, che a un certo punto si sono messi in testa, hanno preso le redini della corsa, e proprio su questa cosa sono andato a chiedere alla fine della tappa al loro DS Matteo Tosatto. Ci porti un po' dentro le tattiche di questa giornata, perché voi avete preso in mano la situazione a un certo punto, poi vi siete dati il cambio con la Jumbo. Vi aspettavate di più da quel vostro forcing? Cosa è successo in quel momento? No, noi la nostra idea era quello sulla salita di essere in buona posizione per non prendere rischi in discesa, soprattutto la prima, perché il gruppo è più grande e non volevamo prendere rischi. Hanno fatto un forcing, però è un forcing normale, non era super impegnativo. Poi abbiamo voluto non rischiare nelle discese e abbiamo preso l'ultima salita in buona posizione, abbiamo seguito Roglic, sono arrivati loro tre, hanno staccato un po' Almeida, Remco, però penso che sia... Sai, oggi già l'ottava tappa, un po' sulle gambe, brutto tempo i giorni scorsi, magari qualcuno ha patito, però è una tappa, si sapeva, è molto impegnativa, però insomma, alla fine non è successo grandi cose. Secondo te non ha detto molto su questo giro, questa tappa? No, è una tappa, si sapeva che era molto impegnativa, in queste zone è sempre molto impegnativa. Penso che i leader sono tutti in salita, c'è chi magari un po' meglio sulle pendenze ripide, chi magari sulla media, però insomma ha detto un po' di cose, ma insomma è un giro molto lungo. Grazie mille, buona Grazie. Giornata. Quindi era un forcing, ma non era un forcing. Noi tante volte interpretiamo a modo nostro le corse, ma tante volte ci sembra tutta, ma tutta non sono, abbiamo dei diversi riferimenti su qual è il tutta. Ad ogni modo, gli Ineos si sono fatti vedere e poi sono stati gli unici due a ricucire su Roglic, per cui le gambe quantomeno ci sono. Le gambe ci sono, io sto avendo consistenti impressioni, vibes di 2020 da parte di Theo Gegenhardt. Pensa che io sto avendo consistenti vibes di 2018, era, credo, di Geraint Thomas. Dici il tour chiaramente, non giro. Sì, a me Thomas oggi ha impressionato molto nella sua qualità di tenuta. Secondo me su Thomas ne sapremo di più domani, su tutti ne sapremo di più domani, ma in particolare sulla presenza e sul ruolo di Geraint Thomas nel proseguo di questo giro. Personalmente credo che sia Theo il capitano di questa squadra, però la Ineos, ragazzi, ha piazzato 5 corridori nei primi 30. Il peggiore della Ineos di questi 5 è stato Arensman, che è arrivato con Uran, Pinot, Pozzovivo, e davanti è arrivato De Plus insieme a Leknesund. Nel gruppo di Evenepoel c'era Sivakov e poi c'erano ovviamente Thomas e Gegenhardt. Cioè 5 corridori tra i migliori della classifica generale possono fare un po' quello che vogliono come squadra. Paragonata alla Soudal di Evenepoel, che ancora una volta è scomparsa nel momento chiave, le possibilità per questi due corridori di ribaltare il giro sono tante, secondo me. Non lo so se siano tante, ma ci sono. Ecco, non so se possono fare quello che vogliono, possono provare a fare quello che vogliono, poi che ci riescano è tutto un altro discorso, perché gli avversari ci sono. È vero che la qualità di squadra, la profondità, come si dice nel football e credo in qualsiasi anche altro sport, calcio, nel basket, anche nel calcio, ma nel ciclismo, quindi anche la profondità di questa squadra, del roster, è sicuramente ben più profonda, se posso ripetermi, di tante altre squadre. Lascio un po' in sospeso il discorso sulla Soudal perché e anche su Remco, perché oggi era una tappa strana. Per cui sicuramente per Remco le vibes, se siamo sempre su questa espressione, non sono positive. Però è vero che questa proprio non era la sua tappa. Come diceva anche Tosatto, ci sono corridori che si adattano meglio a determinati tipi di salite e altri che si adattano meno. E sicuramente queste non sono le salite per un corridore come Remco. Beh, però si è trovato Remco da solo. La Liegi, cioè questa era la piccola Liegi. Però questa non era la Liegi. Si è trovato da solo, si sono trovati da soli tanti altri che non sono la Ineos, per cui insomma è una squadra che prometteva di più la Quickstep, la Soudal. Non intonerei De Profundis quest'oggi, ma anche ci perché mancherebbe. Domani sappiamo cosa succede. Sarei molto curioso se tra i nostri ascoltatori sono degli hacker, se riescono a recuperarmi le comunicazioni radio della Soudal di quest'oggi. No, al di là degli scherzi, sarei molto curioso di capire quanto Remco a un certo punto è entrato in modalità gestione e quanto Remco invece ha provato disperatamente a rientrare su Roglic. Perché mi ha dato in alcuni momenti un'impressione e in altri l'altra. Sì, sì, no, sono d'accordo sul fatto che sia stato un po' confuso sul da farsi, perché all'inizio ha provato a rimanere con Roglic, poi si è reso conto che forse non era il caso. Resta il fatto che il migliore, se vogliamo, della sua squadra è stato Cattaneo, e Hirt e Van Wilder invece sono piuttosto deludenti finora in questo giro. Non vedo come possano proteggere Evenepoel quando arriveranno le tappe più impegnative, davvero le più difficili di questo giro. E lui, secondo me, il dubbio su Evenepoel è: oggi è andato meno bene per via delle conseguenze della caduta, della tappa, del cane, oppure perché lui ha sofferto le pendenze, ha sofferto il ritmo di Roglic. Questo è in sospeso, forse la cronometro di domani ci dirà qualcosa in più, forse no, però è chiaro che c'è qualche crepa che si sta cominciando a mostrare nell'essere l'uomo da battere di Remco Evenepoel in questo giro. Vediamo, ha un peso sulle spalle enorme e ce l'ha dalla primissima tappa, perché è andato subito in maglia, per cui tutti hanno capito da subito che era lui l'uomo da battere. E vediamo se ha spalle così forti a sopportare questa cosa per 21 tappe. Spalle che secondo me sono nella testa, perché adesso oltre ovviamente immagine cubista. Sì, è vero, quello che volevo dire è che al di là delle gambe, che poi nel ciclismo decidono sempre tutto, sarà fondamentale l'aspetto psicologico, soprattutto per Remco, perché lui ieri ha detto: vedo Roglic nervoso. Roglic non è per niente nervoso. Se c'è qualcuno nervoso, forse è Remco. Anche oggi, questo, dopo l'arrivo. Questo però lo sappiamo poco, nel senso che poi queste sono anche molte impressioni che danno loro guardandosi in gruppo, e noi lì in mezzo non ci siamo. Sì, sì, però io continuo a vedere un Roglic abbastanza rilassato. Non so dove Remco l'abbia visto nervoso. Certo, lo vede più lui che io, questo è sicuro. Però secondo me è pericoloso l'aspetto psicologico adesso per Remco, che si è visto un attimo in difficoltà, ha visto forse qualche certezza che aveva cominciare a venire meno. L'ho visto all'arrivo, Remco, e stringeva la mano, dava insomma un abbraccio veloce a Mattia Cattaneo. Aveva un sorriso Remco un po' a metà tra il beffardo e quello del, no, quella faccia di chi ha l'idea di: ah sì? Oggi me l'hai fatta, domani te faccio vedere io. Quindi sono molto curioso per domani. Beh, certo, domani è la sua tappa, deve essere la sua tappa in questo giro. Ma prima di vedere cosa sarà domani, completiamo, non abbiamo citato João Almeida, che comunque oggi è arrivato insieme a Evenepoel. Certo, non ha brillato al massimo, ma è lì. E insieme a Jay Vine, quindi c'è questa coppia della UAE che è parte del giro e sarà parte della battaglia, secondo me. E c'è un'altra coppia, quella della Bahrain, di Jack Haig e Damiano Caruso, che erano anche loro in quel gruppettino Evenepoel, e quindi ce li aspettiamo protagonisti sicuramente più avanti nel giro. Ci sono tutti ancora i protagonisti della vigilia, presunti protagonisti della vigilia, sono ancora tutti al momento in gara in questo Giro d'Italia, e secondo me è un'ottima notizia. È sicuramente un'ottima notizia. Una notizia un po' meno ottima è che noi abbiamo parlato tantissimo, per cui forse abbiamo bisogno di riprendere fiato e far riprendere fiato alle orecchie i nostri ascoltatori, e conosciamo uno strumento che aiuta molto il fiato. E che qual è? Senti il nostro nuovo sponsor. Sei un pedalatore della domenica? Sei un appassionato di ciclismo? Il medico ti ha prescritto 10.000 passi al giorno, ma hai scoperto che in bici fatichi meno? E allora anche tu hai bisogno del Bincio! Bincio! Il Bincio? Ma che cos'è? Con il Bincio! Bincio! Puoi pedalare più veloce degli altri e superare i tuoi amici! Ma come è fatto? E dove si mette? È flessibile, ma anche duro, e puoi attaccarlo dove preferisci! E da oggi il Bincio! Inaugura una nuova versione Limited Edition, il Bincio interconnesso! Ma interconnesso a cosa? Ma è ovvio, interconnesso agli altri Bincio! Bincio! E una volta che sono interconnessi? Parlano tra loro, comunicano e trovano strategie di gara! E tu cosa stai aspettando? Acquista il Bincio interconnesso Limited Edition! Solo per oggi il Bincio! Bincio interconnesso sarà tuo a soli 1.255 euro, e se ne compri due sono già interconnessi e costano solo come comprarne due. Corri, interconnettiti al Bincio! Bincio! Bincio! È sempre un affare. Però, poi adesso è anche interconnesso. Ma io pensavo che quest'anno non ci sarebbe stato il... Allora, per i nuovi ascoltatori che non ci ascoltavano negli anni scorsi, il Bincio è forse lo spot più, come dire, il più longevo di questo nostro lavoro. È un po' come la cedrata Tassoni per il Giro d'Italia. E il Bincio quest'anno è la non ho ancora cedrata. Visto, però comparirà. Però l'interconnesso di quest'anno mi sembra... Si tiene al passo del progresso il Bincio. Costa quanto un iPhone? Forse più di un iPhone? Non lo so, ma vale anche il triplo. Cioè, cosa te ne fai di un iPhone se quando hai un Bincio interconnesso? Se ne compri due, sono già interconnessi tra loro. E costano quanto due? Non è che mi spiace solo che farei, se io fossi la Bincio SRL, non so la società, non so neanche chi lo produca il Bincio, chiederei all'agenzia che gli realizza gli spot di fare Bincio e anche interconnesso. Avrebbero dovuto fare, non so, non l'hanno fatto. Fatto sta che il Bincio riscuote successo e ispirazione in tutto il mondo. Sì, da Barcellona sono arrivati oggi per il Bincio, pensa Filippo. Perché cosa si teneva oggi sulle colline qua sopra? Il Bincio Raduno. Vincere ad uno che non è una cosa, cioè è anche una cosa di cui, su cui andare cauti, di cui dubitare moralmente probabilmente, sì. Ma è un ritrovo di nostri ascoltatori e lettori che una volta all'anno, credo, a volte anche. Due, quando capita, insomma con cadenza irregolare, si ritrovano per pedalare, per bere, per festeggiare e per sognare insieme il bincio. 1, 2, 3 Bincio! Il nostro contributo oggi finisce qua. No, no, ma adesso facciamo l'intervista. Salute! Salute! Dai, facciamo qualcosa per il podcast che poi dobbiamo scappare. Lui ha da dichiarare. Chi è che ha da dichiarare? Il nome di tutti. Qua c'è la successione carbonatica, no? Umbro marchigiana, però ai ragazzi gli piace molto l'anfibolo. Sifonato, soprattutto, e quindi sono un po' in nostalgia. Però si sono divertiti. Momento geologia. Io volevo solo ricordare il compianto Marco Saliscendi, certo. Siamo qua in Suavece, abbiamo fatto tutta diciamo la ricognizione. Monte Cesano è molto bello, molto duro, cappuccini, e un saluto al nostro Marco. In due parole queste salite? Dure ma divertenti. Ma poi spiana veramente. Siamo a Ponte Dazzo di Cantiano. Lei è il signor? Io mi chiamo Maurizio Tanzini, sono un cinecameraman. che bel termine. Ma è lei l'ho coniato appositamente per l'occasione. Cosa sta bevendo di buono? Un bel Brunello di Montalcino. E questa pentolona di pasta asciutta? Questa è già la terza. Ah, già la terza? Sì, la terza. Ha mangiato tutti. Mi disturbo per prendere una forchetta. Prego, forchette sono qua. Grazie. Una notevole... Mangiano. Lei che ha la felpa dell'antica osteria, il proprietario addirittura, in persona. Quindi lei è l'ideatore di questo enorme pentolone di pasta, ormai vuoto perché... Uno dei! Questo è il secondo pentolone che finisce. Terzo. Si scoprirà. Va bene. Quindi ne è andata di pasta quest'oggi. Siamo a 6 kg. Poi anche qui c'erano parecchi corridori tra Fermignano, Fabriano, roba varia, che hanno fatto regolarmente il Giro d'Italia. Chiaro, adesso hanno 70 anni. Che abbiamo inaugurato una ciclovia e c'erano un po' tutti quanti. Praticamente, ripeto, questo giro è di 250 km, ogni comune ha il suo rifornimento di praticamente, ricarica elettrica, ha praticamente gli attrezzi per sistemare e quindi tante gite, tante persone praticamente vengono. Come si chiama la ciclovia? La ciclovia adesso mi hai preso in castagna perché no, ce l'avevo sulla punta della lingua, ma la ciclovia della... Ma io ho una domanda ulteriore, sì. I nuovi comuni, quali sono? I nuovi comuni sarebbero Acqualagna, dove è la città del tartufo, Cagli, che è a 9 km, Cantiano, Sassoferrato, poi c'è Arcevia, perché è dall'altra parte, poi c'era... Spenani, ne manca sempre uno. Io so sempre un po'... Li ritroviamo. No, ma li trovi sicuramente perché... Adesso ti volevo solo se riesco a... Non me lo ricordo, ma... si chiama Grande Via dei Parchi. Grande Via dei Parchi, sì. Ok. The podcast is called Geronimo. Yeah, you are a nice Geronimo. Group. Yeah? You are a nice group from... Yeah. So do you want to say something about Giro? I think the Giro of the three big tours is the best one. Oh. Because so folkloric, it's so fun, you eat better, you drink better, the people are more enthusiastic. It's wonderful, I think. Crazy, but wonderful. Come avrete immaginato, l'introduzione di questo contributo era a cura dei nostri, insomma, erano le voci dei nostri amici che erano al Bincio Raduno. In mezzo avete sentito i nostri incontri sulle strade odierne e anche, come sempre, almeno un piccolo contributo culinario sulle strade odierne. Poi c'è stato anche il buffet, ma non ne parliamo, tanto siamo ben sazi e tra poco andiamo a cena. Il finale era di nuovo un'intervista che ci hanno mandato gli amici del Bincio Raduno, non la traduco, non la traduciamo, perché un po' si capisce, un inglese è talmente basico e sono poche parole, un po' non abbiamo la più pallida idea di chi sia l'interlocutore, per cui ve la lasciamo così, come una dichiarazione d'amore al giro. È la prima volta, credo, che in un nostro podcast c'è un'intervista senza che diciamo chi sia l'intervistato, però sono contento che ci sia, va bene, va bene. C'è un altro intervistato che invece so benissimo chi è, l'ho incontrato a fine tappa, abbiamo parlato delle strade, non abbiamo parlato ma ci stavamo riconnettendo alle strade della tappa di oggi, che è stata per buona parte in Umbria nella sua prima parte, e l'infante del paese di adozione anche, sì, beh, però insomma, di fatto cresciuto su quelle strade e anche infante dei nostri cuori e maestro di lezioni di vita e di corsa, è Salvatore Puccio, che abbiamo incontrato al traguardo. Ciao. How was it today with you? Yeah, it's fine, yeah. Okay. Sì, giornata sulle strade di casa, c'erano un sacco di scritte per te. Sì, dai, è sempre bello partire dove vive la tua famiglia, gli amici, quindi ne ho viste tante lungo il percorso, comunque sapevo dei punti dove mi avevano detto che si posizionavano, quindi è stata bella, dai. C'era la tua bambina anche alla partenza. È un bambino. Un bambino. C'ha due mesi, ha fatto due mesi lunedì e... è una bella emozione perché comunque è la prima volta lui al giro, quindi alle gare anche, quindi. Piangeva o rideva? No, dormiva, quindi alla fine l'abbiamo svegliato per fare le foto, quindi però sono molto contento, tutta la mia famiglia era presente, sono abbastanza fortunato. Quante striscioni, quante scritte, hai tenuto il conto di tutto quello che hai visto lungo questa strada in qualche modo? Ma sai, all'inizio andavamo fortissimi, siamo partiti, poi avevamo 46-47 di media, quindi è stato un po' difficile vedere le scritte, però vedevo tanta gente che sapevo di trovare lì. E questo finale sei riuscito a prendertelo un po' più relax, una volta relax, sì. Per modo di dire, perché siamo sempre in corsa. Sì, però. È una tappa lunga, comunque finito il lavoro ci siamo un po' rilassati per recuperare per i prossimi giorni. Ti aspetta un gran lavoro, lo sai. Sì, dai, speriamo. Fa sempre piacere, se la squadra è davanti, fa sempre piacere lavorare per gli altri. Che clima c'è in squadra in questi giorni? Ma è un clima positivo, dai, la squadra sta bene. Peccato questa mattina Pippo, ma per il resto tutto ok. Stasera gli mandate un messaggio, un video, un sì, audio, cosa fate per Pippo? Sì, sicuramente lo chiameremo videochiamata. Ti lascio andare a riposarti, grazie mille. Ciao. Eh sì, purtroppo questa mattina non è partito Filippo Ganna, quindi la cronometro di domani avrà un favorito in meno, un grande favorito in meno, quindi ci stiamo già proiettando la tappa di domani. Prima però di discutere sui pronostici, chi la vincerà, quali saranno i distacchi, ce la facciamo introdurre come quasi sempre da un locale, da qualcuno che conosce bene la zona. Un'istituzione del ciclismo romagnolo. Non solo romagnolo, mondiale. Oggi abbiamo un'istituzione del ciclismo mondiale, perché la tappa Savignano sul Rubicone Cesena di domani ci viene introdotta da Davide Cassani. Si arriva in Romagna, la cronometro da Savignano sul Rubicone a Cesena, sono 35 km, molto semplici da descrivere perché sono completamente pianeggianti. Ci sono un po' di curve, ma neanche tante. È una crono davvero per specialisti. E quando parliamo di specialisti, dobbiamo assolutamente citare il grande favorito, Evene Paul, ok? Oggi ha perso qualche secondo, ma domani potrebbe vincere la cronometro e potrebbe anche conquistare, o meglio, riconquistare la maglia rosa. Sarà interessante vedere quanto eventualmente infliggerà di distacco gli avversari, a cominciare da quel Roglic che oggi comunque ha dimostrato di stare molto bene. Ma Savignano è sul percorso della Nove Colli, una delle gran fondo più partecipate in Italia, con ben 10-11 mila partenti. Poi si arriva vicino al mare, Gatteo. Pensate che lì ho fatto il mio secondo ritiro della mia carriera da professionista, nel 1983, e correvo nella Termo Langalli di Bruno Reverber. E poi Cesena, la città di Vicini è stato un grande campione di 70-80 anni fa. Era veramente molto molto forte, è arrivato anche secondo in un Tour de France. Ma la cosa che vi consiglio è di fermarvi a prendere e a mangiare la piadina. Allora, c'è da dire una cosa, la piadina a Faenza, casa mia, è diversa rispetto alla piadina di Cesena o di Savignano. Loro la fanno un po' più sottile, noi un po' più grossa, sono buone tutte. L'importante è che vi fermiate in quelle baracchine che vedete sulle strade principali, no? quei chioschi e lì se vi prendete una bella piadina, beh, non andrete in crisi di fame. Quindi buona tappa e benvenuti in Romagna. Grande cassa, grazie mille Davide, non siamo riusciti a incrociarci all'arrivo e si è premurato di farci avere via WhatsApp la presentazione della tappa di domani e i suoi consigli culinari. Domani vedremo corridori con le piadine che spuntano dalle tasche posteriori del body, immagino, per evitare la crisi di fame. Meno gel, più piadine, questo è un po' l'insegna del ciclismo in Romagna. Ma sì, guardando la cronometro di domani, in una parola o massimo due, te ne concedo due, Michele, come la descriveresti questa crono? Che ne pensi di lunga e piatta? Ci sta, sono le due parole che avevo in mente io, però qualche dettaglio in più, quanto è lunga, quanto è piatta, non so, c'è una misura la lunghezza si può misurare, il piattume di una tappa come si misura? La cima Coppi, la tappa di domani, è i 44 metri a Cesena, più o meno verso il centro di Cesena. Si sale? Si sale. Cesena non traguardo, perché poi invece il traguardo è più in basso, adesso non ho più sotto mano l'altimetria, ma comunque si scende fino a 21 metri, una picchiata dalla vetta di 44 fino ai 21 metri sul livello del mare, che sono meno anche dei 30 di partenza. Se guardate la planimetria dall'alto sembra un po' una chiave di violino sdraiata, non mi avventuro in cose che non ti conosco. Consiglierei di non farla. Comunque ci sono vari drittoni, la crono di domani è per specialisti, è 35 km, quindi molto lunga. Secondo me domani volano i minuti. Volano, per rimanere sempre in tema, come si dice, aviario. Non elicotteri. No, non elicotteri, che sono un altro problema che è venuto fuori, di cui non parleremo perché ne hanno parlato già tutti gli altri, ma favoriti, nomi. Non sono tanti, io ne ho in mente due, uno chiaramente, ma ce n'è un altro forse soltanto. Remco Evenepoel e Stefan Kung, esce di qua o c'è qualcun altro? Volevo dirti Kung, che ho visto correre molto a risparmio oggi, altri è difficile, c'è sempre un campione olimpico nella specialità al via, che peraltro sarebbe anche, come dire, sollecitato a fare bene, ecco, nella crono di domani. Vediamo, questi tre, ecco, aggiungo Roglic e basta. Kung ha un po' tirato il fiato, è arrivato a 9 minuti e 03 quest'oggi. Poi magari ha tirato il fiato, magari è andato a tutta e non è riuscito ad andare più forte, non lo sappiamo. Non vedo Remco Evenepoel battibile nella cronometro di domani. Però ecco, Kung è l'alternativa. Però più che le vittorie, più che la vittoria di tappa, sarà interessante vedere invece quali saranno i distacchi che usciranno, perché se pensiamo ai distacchi che ha dato Remco Evenepoel nella crono di apertura, che era lunga la metà di questa, possono veramente ballare grandi minuti domani, ha ragione Michele in questo pronostico. A me le sensazioni date dalla tappa di oggi fanno pensare a distacchi più contenuti rispetto a quelli che avrei pronosticato anche solo due giorni fa. E niente, ribadisco che secondo me la crono di domani sarà molto importante per il signor G, che non è Derek G, ma è Giorgio Gaber. No. Che non è alla partenza, ma è Geraint Thomas, perché ripeto, da come andranno i due Ineos domani si decideranno molte cose di questo Giro d'Italia, a mio modo di vedere, più ancora di quanto quello che potrebbero fare Evenepoel e Roglic. Allora, io sto facendo un momento Pelacci, nel senso che sto digitando sul cellulare mentre registriamo, cosa vietatissima. Perché? Perché oggi ho scambiato due parole con Tosatto anche riguardo alla cronometro di domani e lui mi ha detto che chiaramente la prima cosa sarà capire il recupero della tappa di oggi, e questo è ovvio, ma poi ha detto la cosa fondamentale sarà il meteo, e allora stavo guardando cosa dice su Cesena. Poi sappiamo che il meteo è sempre ballerino, specie in questa stagione. Al momento da pioggia anche molto forte in mattinata, però che poi smette verso le 14, nubi basse, coperto, insomma non sarà una giornata in cui ci verrà voglia di andare a fare il bagno, non dovrebbe piovere sulla corsa, soprattutto sulla corsa degli uomini di classifica. Però strada bagnata sarà fortunatamente... Strada bagnata, strada fortunata, storicamente nel ciclismo non vale. Nel crono questa massima non funziona molto, va detto che... se smette di piovere la strada sarà bagnata, soprattutto chiaramente per quelli più lontani in classifica. Addirittura l'ultimo che parte dovrebbe essere quello con la strada più asciutta di tutti. Quindi il favorito per la vittoria potrebbe essere la maglia nera? No, correrà sotto la pioggia. Ah, certo, la maglia nera corre sotto la pioggia. Niente, sono stanco, mi sa che ci tocca chiudere questa puntata prima di dire ulteriori castronerie. Dico un'ultimissima cosa sul fatto che C'è un precedente più o meno illustre per questo Remco Roglic a cronometro su una lunghezza simile. 30 agosto 2022, Elche-Alicante, 31 km, tappa 10 dell'ultima Vuelta in Spagna. Remco ha dato 48 secondi a Roglic e più di un minuto a tutti gli altri, quasi due a Tao. Teo di questo giro non è il Teo della Vuelta dell'anno scorso. Sicuro? Sicuro. Secondo me il distacco tra Evenepoel e Roglic sarà quello lì, diciamo entro il minuto. Sarei sorpreso se fosse maggiore del minuto. Sì, va detto anche che Cesena non è Alicante. Devo verificare Savignano sul Rubicone Elche, perché invece magari sono gemellate. Infatti domani può andiamo essere, a vedere la cartellonistica. Mettiamo intanto, andiamo già adesso, stasera andiamo a dormire a Rimini, per cui dirigiamoci verso la Riviera Romagnola, salutandovi, salutando come sempre i nostri compagni di strada di Shimano, che oggi abbiamo incrociato molto poco perché avevamo strade diverse, ma domani ci vedremo sicuramente alla crono e anche tra poco a cena, se arriviamo in tempo, li troviamo ancora a tavola. Ringraziamo il personale scolastico della scuola che ci ha aperto quest'aula apposta e vorranno andare a cena anche loro, per cui sarà meglio che ce ne andiamo. Ringraziamo chi ha preparato il buffet, soprattutto i sommelier con cui io mi sono intrattenuto a lungo. Ringraziamo e salutiamo soprattutto i nostri amici del Bincio Raduno che sono lì a grigliare in questo momento. Hai qualcosa da dirgli? Un messaggio ai 10 secondi per dire qualcosa ai Bincio Radunisti? Paolo, Diego, ragazzi, siete i migliori, vorrei essere con voi, vi abbraccio. E allora, con le voci dei nostri amici del Bincio Raduno, vi salutiamo e ci sentiamo domani. Ciao! Amiche e amici di Bidon, di Gironimo e di Alvento, un saluto dal terzo raduno della ciclo officina Bincio e un ringraziamento, perché ci siamo conosciuti soltanto grazie a voi, a Bidon. E mi raccomando, continuate a pedalare col Bincio!